E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana, di nuovo con voi Sebastiano Barisoni. Auguro di buona estate a tutti quali e coloro i quali sono ancora in vacanza, e di buon lavoro a chi è rientrato. Che cosa ci riserva oggi la giornata economico-finanziaria e anche la settimana? Di nuovo la Cina, grande protagonista in questi giorni e in queste settimane, in positivo e in negativo, prima per i timori di un rallentamento cinese, poi invece per la notizia di oggi, che per alcuni versi è anche una conferma. Comunque, il dato atteso è arrivato: la Cina ha superato il Giappone come seconda economia a livello mondiale, quindi non le resta che l'America, a questo punto gli Stati Uniti d'America, per conquistare la prima posizione. In realtà il dato di oggi è frutto più del rallentamento dell'economia giapponese che non di un aumento forte e strutturale dell'economia cinese. È soprattutto il Giappone che ha frenato. Altra notizia che riguarda invece l'Italia, visto che siamo ancora in un periodo per molti italiani perlomeno di vacanze, i dati sul turismo. Ora si può metterla come si vuole, ma i dati aggregati parlano molto chiaro. Le famiglie italiane hanno speso per i viaggi un 10% in meno anche a Ferragosto. Poi le modalità e le forme possono essere più diverse, ma il dato aggregato, ripeto, è un meno 10%, quindi la frenata c'è tutta. Ed è lo specchio anche di una crisi che in questo momento morde soprattutto sui bilanci familiari. La borsa, anche qui molta incertezza nei giorni scorsi. L'incertezza si chiamava soprattutto dati americani sulla disoccupazione, che hanno frenato le stime sulla crescita dell'economia americana, hanno fatto paventare il rischio del cosiddetto double dip, cioè della doppia caduta, una nuova piccola recessione dopo la ripresa appena in corso. Oggi i dati sono leggermente migliori, anche se non sono così importanti. Parliamo della fiducia delle imprese e dei consumatori americani misurata dall'indice del Michigan. Buona, le borse su questo hanno recuperato, perdevano intorno al punto percentuale, meno 0,80 Milano, un punto percentuale di calo le altre borse europee. Adesso siamo meno 0,35% su Milano, meno 0,40% su Parigi, meno 0,1% Francoforte. Invariata Londra, l'America perde lo 0,17% con un euro che è tornato ormai da qualche seduta a quota 1,28,40. I titoli, bene oggi Pirelli più 2,2, Impregilo più 1,80, Parmalat più 1,20, Italcementi più 1%, CIR più 0,90, Fiat più 0,70. Chi perde di più? Ansaldo STS meno 2,5, Ubibank meno 1,20, Telecom Italia meno 1,1, come Unipol e anche Prismia ne ha 2A. Esti Microelectronics perde lo 0,90, infine Generali meno 0,7%, scambi bassi, ma questo insomma è quasi inutile dirlo, il clima è assolutamente ferragostano, se non nelle temperature, quantomeno negli scambi di borsa. 349-238-6666 per i vostri SMS. E adesso iniziamo con le notizie in breve. Allora, il petrolio, volete già sapere del petrolio? Il petrolio è a $75,6 al barile, quindi sostanzialmente è stabile. Non si ferma invece la marcia dell'oro, che è tornata ai massimi da 6 settimane. Non stiamo parlando di un nuovo record storico, ma ci stiamo andando vicini. $1,224,60 l'oncia. Come mai? Ne parleremo in apertura. I dati sulla crescita del giapponese sotto le attese, quella che poi ha portato al sorpasso cinese, hanno in qualche modo, soprattutto chi in questo momento è più interessato anche a giocare una leva speculativa, hanno spinto di nuovo l'oro, hanno fatto tornare le scommesse di una ripresa economica in realtà non così forte come da attese. che colpirebbe quanto a rallentamento non solo gli Stati Uniti ma anche il Giappone. Poi però c'è una notizia molto interessante in un settore messo in ginocchio letteralmente dalla crisi prima, dalla crisi del 2007 e poi anche dalla crisi che ha riguardato le famiglie italiane e a livello mondiale. Mi riferisco alle compagnie aeree, perché? Perché la IATA, che è l'Organizzazione Mondiale del Trasporto Aereo, ha fatto notare come l'andamento del traffico passeggeri premium, che poi in realtà vuol dire la prima e la business class, è andato molto meglio della crescita dei posti nella classe economica. E anche di parecchio più, 16,6% hanno fatto i biglietti della classe prima e business contro il 9,5% dell'aumento delle vendite nella classe economica. Di questo parleremo tra un attimo. Ancora i rimborsi fiscali nei primi sette, e veniamo quindi all'Italia, nei primi sette mesi il fisco ha, o meglio l'Agenzia delle Entrate, ha rimborsato 6 miliardi di euro a 1 milione di italiani. Questo è il dato diffuso oggi appunto dall'Agenzia delle Entrate, che è l'ultimo dato che abbiamo a disposizione sui rimborsi fiscali. E allora i dati giapponesi, così ci avviamo al tema di apertura. Mentre l'inflazione nell'area euro nel mese di luglio è salita, e anche non poco, all'1,7%, in Italia ricorderete il dato dell'1,8%, adesso arrivano notizie in chiaroscuro, la frase può sembrare fatta, ma in realtà è proprio così, dall'America e dall'Asia. La fiducia dei costruttori dell'edilizia americana, infatti, nel mese di agosto è calata, ed è calata anche in maniera consistente, è arrivata a livello più basso dal marzo del 2009, e questo è un dato molto sensibile su quelli che chiamiamo gli indicatori così più empirici dell'andamento dell'economia. Nel frattempo la domanda invece di investimenti finanziari in America è salita a giugno a 44,4 miliardi di dollari, e la Cina si è confermata il primo creditore estero degli Stati Uniti, pur avendo ridotto la propria quota di 24 miliardi di dollari. Insomma, in mano alla Cina ci sono 843 miliardi di investimenti americani. E poi il Giappone, che ha avuto una crescita deludente, nettamente inferiore alle attese, più 0,1% il PIL nipponico nel periodo aprile-giugno, quindi secondo trimestre dell'anno, più 0,4% sull'anno prima, e quindi una ripresa debole, debolissima, che appunto ha come risultato anche indiretto quello di portare la Cina al secondo posto nella classifica mondiale dei paesi che producono più PIL. Con tutte le critiche che possiamo fare al PIL, resta l'unico strumento, il principale strumento per misurare la potenza economica di un paese. Allora, c'è chi scrive al 349-238-6666, faccia un saluto anche a quelli che le ferie se le sono scordate perché non ce l'hanno fatta. Certo che lo facciamo, tutta la nostra comprensione e solidarietà se vogliamo. Parliamo però adesso di Cina e Giappone, un conflitto, è un rapporto anche conflittuale che dura da secoli, e oggi in Cina si festeggia il sorpasso. Per carità, un sorpasso anche e forse momentaneo, visto che stiamo parlando del dato del secondo trimestre dell'anno in quello che riguarda l'economia nipponica rispetto a quella cinese, però il dato c'è tutto: 1.339 miliardi il PIL di Pechino nel secondo trimestre del 2010, 1.288 miliardi quello nipponico. La cosa che fa impressione è la velocità con cui si è arrivati a questo sorpasso. 10 anni fa la Cina era la settima economia al mondo, poi ha superato l'Italia, il Canada, la Gran Bretagna, la Francia, la Germania, e dal 2007 che è stabilmente al terzo posto. Cosa interessante è vedere anche come dovrebbe andare poi l'economia cinese quest'anno. Ora, io so che i numeri fanno impressione, però in Cina temono questo rallentamento dell'economia. Perché? Perché nel 2010 la Cina ha fatto nei primi tre mesi un più 12%, una cosa che un paese come l'Italia riesce a fare forse in 8 anni di crescita economica, se va bene. Nel secondo trimestre del 10,3%, le previsioni per il terzo sono comunque di un rallentamento, più 9%, e un rallentamento ancora più significativo nel quarto trimestre dell'anno, più 8,5%, con un PIL cinese che nel 2011 dovrebbe arrivare a crescere all'8%. Ora, la cosa importante da ricordare è che per il governo comunista cinese una crescita sotto il 7% è una crescita che non garantisce l'espansione economica, cioè avendo la Cina tassi di sviluppo tali, il governo cinese ritiene che solo sopra l'8% si possa garantire una vera espansione, quindi il mantenimento di questi flussi di milioni di cinesi che lasciano le campagne per andare a urbanizzare poi i centri industriali. Comunque, tutti i dati sul confronto Cina-Giappone in questa scheda. Tanto grande quanto agile, la Cina si è lasciata alle spalle anche il Giappone. Nel 2007 era toccato alla Germania e ora, per completare la rimonta, manca oramai solo l'ultimo sorpasso, quello sugli Stati Uniti d'America, previsto dagli economisti intorno al 2027. Sebbene negli ultimi anni Pechino abbia scalato posizioni a un ritmo impressionante, la rincorsa dura in realtà da quasi 30 anni. Lo sprint cinese inizia infatti nei primi anni Ottanta, quando una prima ondata di liberalizzazioni consentono all'economia del dragone di cambiare marcia. Ci sarà un rapido passaggio a vuoto a ridosso del 1990, ma tolto questo incidente di percorso, la corsa del gigante asiatico ha avuto le caratteristiche del rullo compressore, a volte toccando velocità fine eccessive e costringendo le autorità di Pechino a frenare per contenere il surriscaldamento dell'economia, come sta avvenendo adesso con la stretta creditizia messa in campo dal governo principalmente per arginare la bolla immobiliare e che nel 2011 dovrebbe contenere la corsa del PIL entro l'8%. Non è comunque solo la Cina a ridisegnare la geografia economica globale. India e soprattutto Brasile stanno infatti guadagnando terreno altrettanto velocemente, o quasi. Oggi il paese sudamericano è in 8ª posizione, ad un'attaccatura dall'Italia che rimane 7ª. Poco più avanti Gran Bretagna e Francia. Un po' più distaccata in 4ª posizione la Germania e poi Giappone, Cina e Stati Uniti. Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia, buonasera. Salve. Allora, ce lo aspettavamo un po' tutti questo sorpasso. La cosa interessante però a mio avviso è anche vedere, al di là del sorpasso sul Giappone, quale sarà la chiusura d'anno per la Cina. Perché lo dico, così rispondo anche a qualche messaggio che è già arrivato al 349-238-6666, perché insomma la Cina è per il mondo quello che la Germania è per l'Europa. Il nostro PIL crescerà in maniera consistente se la Germania continuerà a mantenere questi tassi, visto che è il nostro primo paese quanto a sbocco delle esportazioni e del Made in Italy. Allo stesso modo la ripresa potrà essere consistente se la Cina continuerà a marciare su certi livelli. La crescita sotto o sopra il 7%, per essere precisi poi, Forchielli, significa per il governo comunista cinese la differenza tra stabilità sociale e instabilità sociale. Sotto il 7% il governo cinese ritiene che vi possano essere dei rischi sulla tenuta sociale del paese. Allora, sorpasso effimero, nel senso che il sorpasso c'è ma solo per un problema del Giappone, mentre rallenta anche l'economia cinese, Forchielli? No, si sapeva da anni, ossia i tassi di crescita del Giappone erano vicini allo zero, quello della Cina tra l'8 e il 10, per cui settimana più, settimana meno, si sapeva da anni che a metà anno quest'anno la Cina avrebbe superato il Giappone, che fra l'altro aveva già superato anni fa in termini di PPP, Purchasing Power Parity. Esattamente. Quindi nessuna sorpresa, cioè, tutto scontato. Ecco, maggiori sorprese invece a mio avviso arrivano dai numeri cinesi, cioè quando abbiamo visto una Cina fare un più 11% a inizio anno nessuno ha avuto nulla da ridire, ci mancherebbe. Il rallentamento, stante le previsioni fatte da Pechino, invece sembrerebbe essere in atto, perché da un più 11 poi si scende, per quello che riguarda il secondo trimestre, a un più 10, poi un più 9,2 per il trimestre in corso, poi un più 8,5, 2011 più 8%. Secondo lei questo in qualche modo può creare delle difficoltà di gestione al governo di Pechino, che nel frattempo si è trovato ad avere anche tensioni così inflazionistiche sul mercato immobiliare, ma non solo? No, è voluto, I cinesi temono più l'inflazione della disoccupazione. Hanno stretto il credito, come lei ha detto prima, a iniziare da marzo, si sono preoccupati dell'eccessiva crescita, di questo salto inflazionistico che il mese scorso è arrivato al 3.3, pianificato al 3, e hanno stretto dando, come fanno loro, danno delle quote alle banche che poi vengono ribaltate giù alle province, diminuiscono i mutui per la seconda o la terza casa, aumento le imposte di registro, le solite manovre, fanno spessissimo, però hanno voluto raffreddare l'economia, perché per i cinesi tutto quello sopra l'8 è quasi eccessivo, è voluto, e quello che ovviamente ha rallentato di più sono stati gli investimenti che di solito crescono a tassi vicino al 20%, sono scesi a una crescita intorno al 13-14%. Ecco. La crescita dei consumi è tenuto, la crescita delle esportazioni ha tenuto, invece insieme agli investimenti sono crollate ovviamente le importazioni, per cui il mese scorso ha fatto un grosso saldo positivo di bilancio commerciale. Allora, le cifre che lei già riassumeva, l'inflazione appunto è salita più delle attese, un 3-3%, le esportazioni cinesi, dato della settimana scorsa, sono aumentate ma meno del mese di giugno, a luglio stiamo comunque parlando di un più 38%, esatto. Cioè cosa per noi così astronomica. Sì, ma quello è il mondo, era tutto il mondo occidentale che si sta rimettendo in moto, quindi stanno ricreando gli stock. Sì, questo è vero. Anche le importazioni, pur aumentando meno del mese di giugno, hanno fatto un più 22,7% contro un più 34%. Mi sembra, per concludere, Forchielli, che in questo momento la preoccupazione più forte, come lei ricordava, del governo cinese sia l'inflazione e il credito. Noi abbiamo già assistito un mese fa a delle borse che hanno preso una scoppola non da ridere quando la Cina ha iniziato a far capire che poteva stringere sull'erogazione del credito, perché cioè, tanto il comunicato ufficiale del Partito Comunista Cinese non l'avremo mai, ma proviamo a immaginarlo. Che cos'è che teme veramente Pechino? Che si generi una bolla dove? Ha ragione lei, ma nel mercato immobiliare però non necessariamente, questa è una roba che diciamo noi, senza, tutti lo dicono ma nessuno ha i dati. Temono comunque l'overinvestment in tutti i settori, temono anche l'avere 4.000 impianti siderurgici o avere 100 produttori d'automobili e avere, non riuscire a fondere i primi 15, capito? Temono anche l'eccesso di investimenti infrastrutturale. È un paese che investe troppo e consuma poco, e alla fine un eccesso di investimento porta a spreco di risorse, un eccesso di competitività che poi danneggia la redditività delle aziende, quindi non necessariamente la bolla immobiliare, perché ho visto il mese scorso sono cresciuti gli affitti, sono cresciuti i valori immobiliari, con 15-20 milioni di persone che tutti gli anni vengono dalla campagna in città, si fa presto a risolvere un problema immobiliare. Gli affitti commerciali sono in crescita, secondo i dati di CB Richard Ellis. Non è tanto quello, è tanto che, attenzione, come lei ha detto, il famoso pacchetto di stimoli di 586 miliardi di dollari in realtà è stato sì erogato, ma è stato erogato sotto forma di prestito bancario, per cui sono le banche che hanno sostenuto lo sforzo e sono banche quotate, il cui... Difatti la borsa di Shanghai è scesa del 20% quest'anno, ma soprattutto sono scesi i valori delle banche. Il PI medio della borsa di Shanghai è 14, ma il sistema bancario che fa la parte del leone è sceso ben al di sotto del 14. Cioè, c'è questa tensione sul problema bancario che si è sobbarcato l'onere di sostenere la ripresa che preoccupa, però io veramente... Non so, forse la Banca Centrale Cinese ha idea delle dimensioni del fenomeno, però nessuno veramente lo sa. Sì, credo neanche loro con precisione. Tutti i problemi che anche noi qui in Italia conosciamo bene, no? Troppi investimenti, troppa liquidità, troppa, no, troppe persone che vogliono venire da noi a investire. È un problema che capiamo, insomma, siamo molto molto vicini, sì, ai cinesi su questo. Un'ultima domanda, Forchielli, vogliamo dedicare però anche un commento al Giappone, so, senza evocare il sacco di Nanchino, lo scontro, no, diciamo, che ha creato anche tensioni diplomatiche e storiche tra i due paesi, ma insomma domani mattina, qualche, tra poche ore, qualche giapponese depresso in più? No, no, lo sapevano, sono depressi per natura. Paese che non cresce, un paese che invecchia, un paese che non riesce ad accettare l'immigrazione, quindi drammaticamente c'è un forte investimento in yen, quindi lo yen è salito, il Giappone è un paese che vive da esportazioni, con lo yen forte le esportazioni sono calate, si pensava, come lei ha detto, a una crescita del 4.4%, adesso parliamo dello 0.4%, nel giro di un mese, una barzelletta, insomma, capito? Il problema tra Cina e Giappone, al di là appunto delle varie storie, è che fondamentalmente il cinese è molto diverso dal giapponese. La differenza che c'è tra un cinese e un giapponese è paragonabile a quella che c'è tra un napoletano e un tedesco. Ecco, una domanda per d'obbligo: chi dei due è napoletano o il tedesco? Il cinese, perfetto. Vabbè, anche qui infatti problemi a... italiano, voglio dire. Cioè, voglio dire, il cinese sta in riga perché c'è il Partito Comunista che lo tiene in riga. Mm-hmm. Sì, e ha metodi anche abbastanza spicci, per esempio nella lotta all'inquinamento, perché oggi la provincia di Anhui, nell'est della Cina, che cosa ha fatto? Insomma, c'erano delle aziende che dovevano cambiare i macchinari. Gli era stato chiesto di cambiare i macchinari perché obsoleti, perché consumavano troppa elettricità e inquinavano troppo. 500 di queste fabbriche non l'avevano fatto e in maniera appunto molto democratica e dialettica gli è stata tagliata l'elettricità, così la prossima volta imparassero. Ecco, sono metodi un po' diversi dai nostri, anche se sicuramente... E non hanno potuto fare ricorso al TAR. E non hanno potuto fare ricorso al TAR, anche perché su questo non oso pensare dove sia il TAR, l'equivalente del TAR del Lazio in Cina. Grazie al Presidente dell'Osservatorio Asia, Alberto Forchielli. Buon Ferragosto, in ritardo anche a lei. Grazie. E vabbè, questi sono problemi di un altro mondo, noi invece ci occupiamo del mondo nostro, che significa meno spese per le vacanze estive, lo so, è un tormentone, poi c'è sempre, arriveranno, infatti già li vedo gli sms che dicono: ma come, i ristoranti sono tutti pieni, gli alberghi sono tutti pieni, ma dipende dove uno va. In realtà i dati a questo punto sembrano abbastanza incontrovertibili, li ha pubblicati il Sole 24 Ore questa domenica, appunto per Ferragosto. Crescono alcuni settori, ma per esempio soffrono anche gli agriturismi. E il budget medio è in calo del 10%. Ripeto, è inutile poi appellarsi all'esperienza personale, ognuno di noi ha la sua, però è innegabile che la frenata come budget complessivo delle famiglie ci sia stata, con diversi distinguo all'interno di questa frenata. Allora, io capisco che in alcune parti d'Italia fa caldo, in altre parti invece piove e rovina l'estate, però adesso prendersela per il commento, la battuta di Alberto Forchielli sulla differenza tra i cinesi e i giapponesi, come quella che c'è tra un napoletano, un italiano e un tedesco. Adesso non so chi se la debba prendere, il napoletano, il cinese, il giapponese, il tedesco, non lo so. Era chiaramente un modo anche per non essere sempre così seri o seriosi, per far capire quanto di diverso ci sia tra due paesi che ogni tanto mettiamo assieme perché li chiamiamo Asia. Invece andiamo sulle freddure ferragostane, no, sulla freddezza delle famiglie verso la spesa per i viaggi. Ne ha scritto ieri sul Sole 24 Ore Matteo Prioschi, che è il nostro ospite, collega del Sole. Buonasera Matteo. Buonasera a voi. Allora, a luglio la spesa media delle vacanze in Italia è passata da 590 a 530 euro. Per agosto non si prevedono complessivamente cali sensibili, però tutti gli operatori prevedono di chiudere comunque in ribasso. I tre settori che abbiamo visto più soffrire, poi adesso voglio sapere da te qual è la fotografia con maggior dettaglio, c'è quello balneare che obiettivamente soffre più di altri. Domanda: non è un po' un luogo comune continuare a dire gli italiani spendono meno in vacanza e poi invece notare che tutto sommato le presenze ci sono, oppure voi siete riusciti a elaborare dei dati che vi portano a quel meno 10% medio su base del mese appunto di Ferragosto e del mese di agosto, dati anche disaggregati, cioè dove, come e quando? Prego. Sì, allora, quel meno 10% diciamo che è indicativo dei settori principali, iniziare appunto dal mare Italia che in estate fa i grandi numeri. E lì sono gli stessi operatori ad affermarlo, iniziano ad esserci un po' delle indicazioni di massima a livello di presenze, se tutto viene confermato, ma le ultime rilevazioni sono della prima settimana di agosto, la stagione potrebbe chiudersi con 16 milioni di presenze in meno. L'APT dell'Emilia Romagna, che non vuol dire persone, vuol dire numero di notti, esatto, no? L'APT dell'Emilia Romagna, che voglio dire, mi sembra un indicatore abbastanza valido, Direi di sì. Stima un giro d'affari in chiusura di meno 10, presenze meno 2, ma giro d'affari meno 10, e quindi diciamo che il grosso del comparto soffre. Poi ci sono altri settori che vanno bene, poi anche lì bisogna distinguere un po' tra andare bene a livello di numeri, di presenze e poi di ricavi e utili per gli operatori. Ad esempio le crociere vanno bene, soprattutto quelle nel Mediterraneo fanno più 20, anche più 30 a livello di passeggeri, poi in realtà gli operatori dicono che hanno dovuto stracciare i prezzi e quindi se vanno in pareggio va già bene, insomma. Sì, ecco, qui andrebbe distinto proprio da un punto di vista dell'analisi il dato che riguarda le presenze con il dato che riguarda poi i consumi, perché sappiamo che da un lato oggettivamente, anche se c'è chi scrive per carità che gli alberghi italiani sono ancora molto o troppo cari, è innegabile, dati alla mano, che vi sia stata una contrazione dei prezzi, per fortuna, anche visto che in alcuni casi non erano giustificati, per cercare di tenere botta sulle presenze. Però voi, proprio citando l'Emilia Romagna, che mi sembra l'osservatorio anche più sensibile su questo, avete visto un meno 2% come presenze, esatto, ma un meno 10% come giro d'affari, esatto. Il che starebbe a dire, a significare che uno cerca di fare quasi gli stessi giorni dell'anno scorso, ma spendendo meno. Esatto, e questa è un po' la tendenza e... Quindi appunto la contrazione c'è, ma limitata appunto sui giorni, mentre si fa molto più attenzione a come si spende e quanto si spende. L'altra cosa che abbiamo rilevato è che poi invece ci sono dei settori che continuano a tirare o magari sono addirittura in crescita. Ad esempio le spese per chi va all'estero vengono date stabili o addirittura in ascesa, anche se come valori assoluti poi le persone che ci vanno sono meno, insomma, comunque sono una sono meno ma sono più ricchi, esatto, detto un po' in maniera così approssimativa. Un'altra domanda, Matteo, è strano notare che in un periodo di neo austerità, di neo sobrietà, e non a caso dedicheremo alla figura di chi ha creato questo termine, il nostro ospite spesso, mi riferisco a Gianpaolo Fabris, sociologo di consumi massimo in Italia, scomparso qualche mese fa. Abbiamo preparato un ricordo di quello che era stato il pensiero anche di Gianpaolo Fabris, che metteremo in onda nei prossimi giorni. Ma dicevo, in un clima di neosobrietà è strano notare come cagliano anche gli agriturismo. Sì, lì c'è una doppia lettura da fare, secondo quanto dicono gli operatori. Da una parte loro fanno i conti con una forte concorrenza degli alberghi, soprattutto nelle città. Hanno rilevato che gli alberghi hanno stracciato le tariffe, quindi molte volte appunto il turista, piuttosto che andare nell'agriturismo appena fuori la città, preferisce andare direttamente in città a parità di prezzo. Dall'altro c'è comunque che sono cresciute molto le strutture e oggi si ritrovano un po' con una sovracapacità e quindi anche lì per cercare di riempire riducono loro stessi le tariffe e il giro d'affari cala. Allora, anche qui vedo che alcuni dicono: ma diteci dove andate in vacanza, perché noi gli alberghi li troviamo molto cari. Avete ragione, è sempre difficile toccare un tema come questo quando lavori sui dati aggregati. Però siccome così delle volte anche la politica ci mette il suo zampino e dice: ma no, attenzione, non è vero, dov'è la crisi, ma cos'è questa crisi? Su questo, insomma, a noi interessava il dato complessivamente aggregato per quello che riguarda l'elemento della crisi. Alcuni vogliono la canzone di Petrolini sulla crisi, magari anche dopo. Adesso ho da fare la borsa e poi parlare anche di responsabilità sociale di impresa. Intanto ringrazio il collega Sole 24 Ore, Matteo Prioschi. Buon lavoro anche a te e a tutti i colleghi che lavorano al quotidiano. Grazie a voi. Allora, la borsa adesso non è annunciata oggi dalla campanella, però è un meno 0,30% su Milano, meno 0,40% su Parigi, invariata Francoforte, Londra, invariata anch'essa euro a quota 1,28,46. Sul turismo, però, visto che ce lo chiedete, insomma, volete sapere, vedo che il tema insomma piace evidentemente. Questo è un elemento anche di discussione, magari sotto l'ombrellone, magari quando si è ridotta la presenza. Noi abbiamo preparato anche una scheda, così questi dati poi vengono aggregati complessivamente. Salvo improbabili recuperi al photo finish, l'estate 2010 ha regalato parecchie delusioni agli operatori del settore, con significativi cali degli incassi. La spesa media dei vacanzieri si è infatti ridotta del 10%, passando da 590 a 530 euro, mentre la durata del soggiorno si è accorciata sempre in media di mezza giornata. Una stretta che ha colpito in primo luogo le località balneari, con le uniche eccezioni di spiagge tradizionalmente meno care, come quelle romagnole e marchigiane, oltre ai lidi friulani. Tengono la montagna e le città d'arte, mentre l'annata volge al brutto anche per campeggi, bed and breakfast e agriturismi. Questi ultimi per la prima volta in calo dopo anni con il segno più. Non va meglio per l'affitto di case vacanza, con il mercato che registra flessioni fino al 15%. Dove batte forte il sole è invece nei bilanci degli armatori di navi da crociere, con ricavi in aumento di ben il 20% rispetto al 2009. Secondo il Censis, un italiano su due quest'anno non si è concesso ferie, ma a penalizzare il settore non sono state solo le rinunce. Una quota crescente di vacanzieri ha infatti optato per l'estero, attratto da offerte più vantaggiose, in particolare sul Mar Rosso e nelle Baleari. Del resto, stando ai dati Istat, nulla è stato fatto per invogliare gli italiani a lasciare il passaporto nel cassetto. Nonostante i tempi di crisi, i prezzi nelle località della penisola sono infatti aumentati quanto se non più degli altri anni. Agriturismi, bed and breakfast, campeggi, stabilimenti balneari, ristoranti e bar hanno tutti mediamente ritoccato i prezzi all'insù, ben oltre l'inflazione. Unica eccezione le grandi catene alberghiere, che hanno limato i prezzi verso il basso dello 0,6%. E quindi, nonostante i messaggi che ci stanno arrivando di molti albergatori che dicono abbiamo fatto offerte, siamo un albergo 4 stelle, dormi 7 notti, ne paghi 5 e quant'altro, in realtà quello che dice il Censis è molto chiaro, un ritocco c'è stato anche quest'anno nei prezzi di chi deve dare l'alloggio o lasciamo stare poi la ristorazione, un rincaro dello 0,6%. Sempre il Censis, lo dico per chiudere questo tema, ha rilevato anche un leggero aumento di quella forma un po' strana di finti turisti, cioè quelli che si chiudono in casa, parcheggiano la macchina da un'altra parte, abbassano le tapparelle, si chiudono dentro per far finta di essere partiti e invece stanno in casa. Secondo il Censis, questa forma di chi non ha il coraggio di ammettere una debolezza economica, una cosa che avrebbe vista come una neopovertà, raggiunge addirittura l'11% degli italiani. Non sappiamo quante tapparelle abbia verificato però il Censis. Adesso parliamo di borsa. Alla fine meno 0,3%, era partita un po' peggio la giornata con uno 0,8% iniziale, poi qualche dato americano, indice della fiducia dei consumatori del Michigan, ha migliorato le attese. Certo che parliamo di scambi bassi e di pochi operatori, a pesare comunque in negativo anche nel finale è stato il dato sul PIL giapponese con cui abbiamo aperto questo programma. Guido Maurino, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, basta col PIL giapponese. Basta anche col turismo, andiamo sui settori oggi più indeboliti. A Milano, Ansaldo STS meno 2,6%, per carità venerdì ha fatto più 5,5%, quindi immagino siano presi beneficio. Unipol meno 1,20%, e in generale deboluccio il settore bancario, UbiBank meno 1%, ancora Generali meno 0,70%, Intesa meno 0,6%, Mediolanum meno 0,7%, Monte dei Paschi in mezzo punto percentuale di calo, come la Popolare di Milano. Guido. Sì, le banche oggi sono stati fra i titoli diciamo più venduti, in particolar modo in mattinata, quando le perdite erano più pesanti e andavano oltre i 2 punti percentuali, per poi riprendersi leggermente nel finale di seduta. Al netto delle cose che dicevi già tu riguardo alla debolezza dell'economia giapponese, c'è da segnalare anche una qualche preoccupazione per il sistema bancario irlandese, dopo che il numero uno della Banca Centrale di Dublino ha sottolineato che serviranno 30 miliardi di euro per mettere un po' in sicurezza il sistema creditizio del paese. E se ne accorge adesso? Diciamo che sono quelle cose che ciclicamente tornano a fare paura, poi ulteriori rassicurazioni e di nuovo nuovi timori, sono cose che ciclicamente succedono. Oggi sì, è uno sì, di quei tanto giorni. Di mezzo c'è una bella speculazione con pochissimi operatori presenti, ma va bene anche così. Andiamo avanti. Impregilo invece è positiva oggi lungo tutta la seduta e infatti alla fine chiudo con un più 2% assieme a Pirelli, più 2,1%. Impregilo sì. E Pirelli. Allora, per quello che riguarda Pirelli non ci sono ragioni particolari, semplicemente il titolo aveva ceduto un po' nell'ultima settimana, aveva perso quasi il 5%, oggi sostanzialmente ha riguadagnato qualcosina, mentre per quello che riguarda Impregilo a spingere il titolo sono state da un lato le attese per la costruzione della mega autostrada in Libia da oltre 3 miliardi di dollari, dall'altra parte i conti del gruppo tedesco Octif, che ha infatti oggi presentato i conti trimestrali, ha chiuso a Francoforte con un rialzo del 4,62% e diciamo ha ridato un pochettino di ottimismo sul settore delle costruzioni europeo. Allora Guido Maurino, al di là di appunto le banche di Pirelli e Impregilo, c'è un caso oggi in borsa che è abbastanza singolare, perché nemmeno diciamo i diretti interessati se lo stanno a spiegare. Pininfarina più 17,2%, ma è arrivata a guadagnare oggi il titolo anche il 27%. Che è successo? Il problema è che non si sa cosa sia successo, perché sono due sedute che il titolo Pininfarina va molto bene, a parte oggi, già venerdì aveva guadagnato oltre il 10%. Mm-hmm. La società ha detto sostanzialmente di non essere a conoscenza delle ragioni che possano determinare un andamento così forte del titolo. D'altra parte anche gli scambi, in una giornata che essendo subito dopo Ferragosto in genere ha scambi molto bassi, mentre su Pininfarina gli scambi sono stati molto alti. La società aveva pubblicato i conti lo scorso 5 agosto, quindi già parecchi giorni fa, oltretutto conti chiusi in perdita per 29,5 milioni e in peggioramento rispetto a quelli di un anno fa. Ci sono state in passato, va segnalato anche se appunto sono voci del passato, di un possibile ingresso del finanziere Vincent Bolloré nel capitale della società. D'altra parte, insomma, al momento non si conosce. Non ci sono ragioni per ritenere che questo sia vero o che sia imminente o anche soltanto allo studio. Allora, Stella Therapeutics più 9,12%, anche questo è un titolo molto molto volatile in questi giovani. Qui c'è in realtà una notizia di mercato, ma anche di contenuto, il Pixantrone, no? Che è un antitumorale, al di là del nome è un antitumorale importantissimo. Sì, questo antitumorale oggi la società ha reso noto che l'Agenzia Europea per i medicinali ha convalidato il piano di sperimentazione anche pediatrica per il Pixantrone, quindi insomma è una notizia che oggi ha fatto balzare il titolo, certo. Ha fatto guadagnare il 9,12%. Peggior titolo Archimedica, meno 5%, investimenti e sviluppo meno 4,30%, Dada meno 3,30%, Tiscali meno 3,1%, bene anche Stefanel più 8,80%, Marcolin più 4,3%. Grazie e buon lavoro a Guido Maurino e ai colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore. Grazie. E adesso, visto che come sempre facciamo d'estate, ci occupiamo di libri, di riflessioni, di analisi non proprio sempre legate così tanto alla cronaca in senso stretto, ci aveva molto colpito in questi giorni un'iniziativa, non avrei altro modo di chiamarla, che riguarda il cosiddetto tema del CSR, della responsabilità sociale delle imprese. Allora, parliamoci chiaro, delle volte, con tutta la buona volontà, dietro la responsabilità sociale delle imprese si nasconde anche molto marketing, e questo, diciamo così, andrebbe anche distinto o distinta l'impresa che fa veramente CSR e quella che la usa così per dare una mano di bianco ai suoi interessi e far finta di essere anche interessata alla collettività. Tra chi non la usa come effetto marketing c'è un gruppo di 1000 manager, imprenditori e professionisti che si sono riuniti in un'iniziativa che a noi piace molto, visto che spesso parliamo anche di merito, meritocrazia, selezione della classe dirigente, capacità anche di portare verso l'alto non solo i figli di e i raccomandati da. Si chiama Prospera, ossia l'acronimo è per Progetto Speranza. L'obiettivo è, diciamo, di migliorare, dare le possibilità, le maggiori possibilità a chi arriva o si sta facendo il mondo del lavoro, in qualche modo dandoci una specie di codice etico tra questi 1000 manager, imprenditori e professionisti che aderiscono in maniera volontaria all'iniziativa. E siamo in collegamento con l'ingegnere Pierluigi Curcuruto, che oltre a essere il Chief Operating Officer di Intesa San Paolo è l'ideatore del progetto. Ingegnere, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, che cosa è Prospera? Aiutare il paese ad avere speranze nel futuro sembra quasi un manifesto politico, ma in realtà voi non volete far politica. Assolutamente no. Tutto nasce da un senso proprio di impotenza, di manager che si reputano persone che hanno avuto tanto dalla vita. Io sono in particolare diventato anche nonno quest'anno e quindi mi sento anche ancora maggiormente responsabilizzato per le future generazioni. E a fronte di quanto abbiamo ricevuto, noi oggi sentiamo l'impegno di dover dare. E dare vuol dire fare dei progetti che possono creare un ponte di collegamento, da qui il progetto Speranza, tra il mondo universitario e il mondo del lavoro. Chiaro che poi ci interessa capire cosa, bellissima idea, devo dire, anche qui quasi anglosassone come approccio, ridare ciò che si è ottenuto dalla società, ma dicevo, che cosa e dove operate concretamente? Ci sono dei progetti che riguardano soprattutto i giovani, lei citava il fatto che è nonno, che insomma il vostro impegno deve essere anche sulle nuove generazioni. Assolutamente, primo campo di intervento è stato il campo universitario, accordi col Politecnico di Torino, di Milano, la Seconda Università degli Studi di Napoli, Bologna, Verona, l'Università di Cattolica, proprio per dare la prima cosa che noi possiamo fare, che è la nostra testimonianza, la nostra esperienza, la nostra mentorship, per poi stabilire una serie di progetti dove accompagnare con cose concrete i ragazzi all'interno del mondo di lavoro. Il secondo campo di intervento è stato la pubblica amministrazione. Abbiamo firmato un accordo con il Comune di Milano, subito dopo l'accordo con il Comune di Firenze, di costruire una delivery unit, quindi un'entità alla Tony Blair che la fece per primo nel 2001, con il compito di inserire nella delivery unit dei giovani, degli stagisti, per analizzare il livello di servizio che diamo al cittadino, la green economy, l'infomobilità, quindi cose concrete. Ecco, la nostra associazione vuole fare piccole cose, non pensiamo di cambiare il paese, ma pensiamo di creare anche un trust tra persone basandosi proprio sul fare. Ci dice la composizione di questi 1000 volonterosi, sì, non garibaldini, ma insomma 1000 volonterosi nel sociale. 1037 che è il numero, questo per far vedere quel numero che cresce continuamente. Il 51% sono manager, un 28% executive, quindi amministratori delegati, direttori generali, un 10% di professionisti con una buona partecipazione anche di professori universitari. Voi avete anche un accordo con il Politecnico di Milano, con quello di Torino, con l'Ateneo di Verona, ma anche con l'Istud e poi con Napoli e Bologna, no? Sì, abbiamo anche un accordo con Casper, che è il consorzio interuniversitario per l'applicazione di supercalcolo per l'università, con Altis, l'Università Cattolica. Spaziamo nel campo manageriale e nel campo professionistico. Noi siamo a titolo personale, però dobbiamo tenere conto che abbiamo sempre le nostre aziende e quindi possiamo creare anche opportunità nell'interesse dell'azienda e nell'interesse dei ragazzi. Allora, ingegnere, posso fare una battuta che è anche una provocazione? Prego. Forse il migliore impegno sociale di chi come voi è manager affermato da molti anni, decenni, ha raggiunto posizioni di vertice, il maggiore impegno nei confronti dei giovani sarebbe quello di farsi da parte a un certo momento. Ma la domanda è sicuramente giusta. Posso dare una duplice risposta. La prima è che, tra virgolette, un anno e mezzo fa, quando sono stato promosso, io 58enne, ho lasciato un posto di lavoro a una persona di 41 anni. E penso e spero, quando toccherà anche in questa nuova carica di lasciare, sicuramente sarà una persona più giovane. Questo vuol dire però avere costruito un percorso di crescita e non aver fatto solo un discorso puramente anagrafico. Due altre considerazioni. La prima, all'interno proprio dell'associazione Prospera abbiamo attivato un gruppo di senior net, ossia un gruppo di persone che già sono in pensione, però che hanno ancora moltissimo da dare all'interno della società. E hanno un fattore molto utile per noi, che è il fattore tempo. Quindi queste persone si stanno dedicando, utilizzando le loro esperienze, ovviamente in termini di volontariato, quindi a titolo puramente gratuito, di poter trasferire, grazie al tempo che hanno, questa esperienza ai giovani in termini proprio di crescita professionale. E l'ultima considerazione, che proprio io stesso ho come principale esigenza alla fine della mia carriera, che chiaramente tenendo conto che 60 anni non sarà infinita, quella di poter continuare a dare a questo paese e quindi di poter mettere a disposizione gratuita la mia esperienza, per esempio per fare il city manager, per costruire e poter dare l'aspetto manageriale a un'intera città. Questo vuol dire che noi dobbiamo costruire un'associazione, un'alleanza tra giovani, qui riprendo l'obiettivo di Prospera, che utilizzando l'esperienza delle persone che hanno costruito qualcosa, questa esperienza possa essere trasferita in maniera continuativa ai giovani, con una crescita graduale e reciproca. Grazie, in bocca al lupo all'associazione Prospera e quindi Progetto Speranza e a chi l'ha creata, Pierluigi Curcuruto. Grazie, crepi il lupo e buonasera. Sì, vedo già battute sul fatto che invece il problema del, diciamo, di chi è fuori dal mondo del lavoro e ha tempo libero per insegnare ai giovani non si crea in politica, lo so. La politica vive di altre dinamiche che non sono quelle manageriali. Noi invece resteremo sul tema della formazione anche nelle prossime puntate, del merito, i temi classici, anche l'evasione fiscale. Vedo che tutti siete tornati belli pimpanti, soprattutto magari chi non se n'è mai andato. Per ora però è veramente tutto, il format infatti del programma fino a fine agosto resta di un'ora. A me non resta che ricordarvi come sta l'America, che ha girato in positivo, più 0,15% in questo momento il Dow Jones e più 0,60 il Nasdaq, e poi augurarvi buona serata. Noi ci risentiamo domani con Focus Economia dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.